La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci come ogni weekend, come ogni sabato qui a Radio 24 a parlare di cinema. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, il nostro settimanale sui film da vedere sul grande schermo e perché no ogni tanto anche sul piccolo. Ma insomma tante uscite questa settimana, abbiamo dovuto fare selezioni piuttosto drastiche per una settimana molto variegata sotto il piano della proposta cinematografica in sala. Noi apriamo questa trasmissione con un film e un ospite che abbiamo tanto voluto avere qui con noi, perché il suo film La Prima Neve è stato un trionfo, un vero trionfo. Si usa a volte un po' a sproposito questa parola, ma invece io c'ero, lo posso dire, alla sala grande del Palazzo del Cinema a Venezia quest'anno. Lui, Andrea Segre, aveva firmato qualche stagione fa, un paio di stagioni fa, un film che si intitolava Io sono lì ed era uno straordinario affresco di una storia di integrazione evoluta in quel di Chioggia. Stavolta con La Prima Neve ritorna con un film di stretta necessità, perché guardate quello che è successo proprio in questi giorni a Lampedusa e capirete meglio cosa vuol dire parlare di immigrazione, tante volte in maniera un po' superficiale. Lo capirete meglio dopo aver visto questo film. E allora, Andrea Segre con La Prima Neve, cominciamo con una clip del film e poi ne parliamo. Mi ha chiamato il preside, mi ha detto che non c'eri. Se c'era tuo padre ti avrebbe già dato due sberle. Fallo tu, visto che lui non può. Assaggia. Adesso non usa questo. Hanno lo stesso odore. Le cose che hanno lo stesso odore devono stare insieme. Michele! Dani, ma è vero che sei arrivato in barca? Sì. Com'era il mare? Faceva paura. Il mare faceva paura, dice il personaggio del film di Andrea Segre, La Prima Neve, questo ragazzone del Togo che non riesce ad accettare una paternità dopo un dramma vissuto proprio in quel mare che faceva paura, la perdita della moglie. Dall'altra parte un ragazzino che invece un padre non ce l'ha, ha una madre che fa di tutto ma forse non riesce a stabilire il contatto giusto con questo ragazzo, queste due anime tutto sommato con una perdita laterale alle spalle o davanti a sé, riusciranno in qualche modo a comunicare, a creare una unione. Salutiamo Andrea Segre in collegamento con noi al telefono qui alla Rosa Purpurea. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Allora, dicevamo del tuo film, ancora una volta il tuo cinema, come hai fatto con Io sono lì, racconta il vero, racconta il reale, senza usare il documentario ma senza neanche eccedere nella narrazione. Come dire, c'è comunque un equilibrio fra il realismo delle storie e la messa in scena. Come lavori a questo equilibrio che mi sembra sia, almeno in questi due film, un po' la tua caratteristica fondante? Lasciando lo spazio alla realtà di stupirmi, di condividere con me il percorso creativo in qualche modo, tutte le facce della realtà, tutti i diversi aspetti, da i personaggi, le persone non attori che coinvolgo nel film, come il meraviglioso Matteo in questo caso, gli attori che però a cui chiedo di aderire ad un percorso che è certamente professionale ma è anche molto umano, ma anche i luoghi, gli spazi in cui giriamo. Hai girato appunto questi luoghi, questi spazi in Trentino, a Pergine Valsugana, ma insomma in un ambiente naturale, maestoso, placido, incombente, che diventa, oltre che scenario, diventa anche protagonista, fa quasi saltare fuori, come dei popcorn che esplodono, le povertà, le miserie un po' dell'animo umano, no? Sì, credo sia una natura severa quella della montagna, severa nella sua bellezza, severa nella sua anche dolcezza se vogliamo, però comunque una natura che rimane a guardare la capacità degli uomini di guardare in faccia le contraddizioni e i dolori per riuscire ad andare oltre. Se non ci riescono la natura non può certo risolvere, però ascoltando la natura e la sua severità, Michele Dani insieme, da soli, nei boschi della Valle dei Moccheni, capiscono qualcosa in più di quello che avrebbero capito se non si fossero incontrati. Senti, nei tuoi film, appunto, anche come già in Io sono lì, anche in questo caso, il tema dell'integrazione è trattato in maniera molto originale, secondo me, perché mette noi, quelli che ospitano, diciamo così, di fronte al fatto di relazionarsi a questa realtà, a questo tema e di tirare fuori il meglio di sé. Succedeva anche con la barista di Io sono lì, quasi come a dire che gli integrati tante volte sono quelli che arrivano da fuori, siamo noi che siamo disintegrati. Questo è un tema molto forte. Io credo che la chiusura rispetto al non conoscere, al non capire l'altro, derivi molto da una situazione di non consapevolezza di ciò che sei, di ciò che stai diventando. Cioè, nel momento in cui non sai chi sei, hai paura dell'altro. Nel momento in cui non sai, non capisci che cosa hai dentro, hai paura dell'altro. E questo è un po', credo, il grande tema della modernità. Cioè, sapere che la nostra identità non può essere chiusa in una scatola, ma deve trovare un confronto con l'altro e in questo confronto ricostruirsi, rielaborarsi. Grazie ancora, Andrea. Grazie a voi, ciao. E allora, questo era Andrea Segre, questo era La Prima Neve, il nostro film della settimana. Noi invece cominciamo a giocare con voi con la prima traccia del film misterioso di oggi. Non calpestate quelle strane pietre appuntite. Dice queste pietre? Ah, non calpestate queste pietre! Spostatevi, femminucce! La Rosa Purpurea @radio24.it. Se avete già indovinato di che film si tratta, scrivetecelo in una mail, scriveteci anche il vostro indirizzo, provate a vincere una copia in Blu-ray di questo film per i primi due ascoltatori che indovineranno. Più tardi avremo un'altra traccia da farvi ascoltare. È già con noi Sara Sagrati, pronto? Pronto, Franco. Eccola lì la nostra Rosa Purpurea. Allora, Sara, il nostro sguardo femminile in questa trasmissione di maschiacci, ma ancora deve arrivare Boris Sollazzo, figuratevi, ma basto io. Allora, io vi faccio ascoltare una clip di questo film che si intitola Two Mothers, Due Madri. Che bello che i film finalmente cominciano a uscire in Italia anche con i titoli originali. E poi ne parliamo brevemente con Sara. Ciao. Ciao. Non credo che sia in casa. Non sono venuto a Perianna. Oh, dai, entra. Ci mancherai moltissimo. E tu mancherai a me. Tom! Che fa? Mi dispiace. Non avresti dovuto farlo. Lo so. E insomma, pensa se fosse arrivato Ian. Ian è occupato a fare altro. Che vorresti dire? Voglio dire che stanotte sono andato in cucina per bere e ho visto mia madre uscire dalla camera di Ian. Potremmo chiamarlo un quadrangolo. Quando avete sentito il momento topico, si stavano baciando una mamma e l'amico del figlio, insomma, per intenderci. Però pare che anche dall'altra parte la relazione funzionasse. Insomma, queste two mothers del film, Sara, cosa ci portano di buono o di meno buono? Forse si doveva essere più che Two Mothers, Two MILF, e lascio a chissà cosa intendo la traduzione di quello che dico, che non è molto radiofonico. In realtà il film è, appunto, come dicevi giustamente, un quadrilatero, un quadrangolo con queste due donne che sono Robin Wright e Naomi Watts, in splendida forma, quasi sempre in costume da bagno meravigliose, che sono cresciute insieme, sono migliori amiche da sempre e hanno cresciuto due bei giovanotti fustacchioni, a omogenizzato e a OGM per le mascelle, e guardandoli belli come il sole, a un certo punto se li scambiano, al posto che essere scambio di coppia è uno scambio di figli. Adesso faccio un po' la spiritosa, perché il film, in effetti, del film è molto, molto interessante, molto intrigante, anche perché è tratto da un libro che si chiama Le Nonne di Doris Lessing, il premio Nobel per la letteratura, molto intrigante, che pone dei dilemmi morali su quella che è l'amore, la società. Purtroppo il film, per non indurre troppo nell'osco, nel torbido, rimane molto superficiale, molto sulla forma, e purtroppo la scrittura della sceneggiatura non è all'altezza della scrittura della grande scrittrice. Drammatica bocciatura di Two Mothers da parte di Sara Sagrati, che ritroviamo la prossima settimana. Ciao Sara. Ciao, arrivederci. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, la Rosa Purpurea. Abbiamo ancora tanti film in sala di cui parlarvi. Lo facciamo con il nostro Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco. Allora, ti aspetta la solita apnea, i soliti tweet purpurei per dare indicazioni lancinanti ai nostri ascoltatori per andare al cinema. Allora, piccola impresa meridionale. Torna Rocco Papaleo dopo il grande successo del suo esordio alla regia Basilicata Coast to Coast. Torna con un film con più mezzi, sicuramente anche economici, con Riccardo Scamarcio al suo fianco. Ascoltiamo questa clip. Non mi chiedere niente, perché... No, invece ti chiedo, Arturo. No, io non ce la faccio più a fare questo. Tutti quanti che mi prendono in giro con questa storia delle corna. Fammi stare qua. Ma la scuola guida? La scuola guida ci sta Maddalena e Caterina. Se la vedono loro, io mi metto qua dentro la casetta. Sì, mo tutti nella casetta. Tutti chi? Nella casetta per qualche giorno c'è una donna. E che fa? La prostituta, dice. Quanto ti costa? Ma mica ci vado a letto, Artù. So prete. Vieni che te la presento. Magnolia, lui è Arturo, il marito di mia sorella. Ah, il cornuto. Da questo gliel'ha detto. Non gli ho detto niente io. Eh sì, chi gliel'ha detto? L'ho detto io. Le cose si sanno. E allora, un prete spretato che va a vivere in un faro con una prostituta da redimere e con l'amico che arriva perché è cornuto. Insomma, diciamo che il materiale della commedia all'italiana c'è tutto, Boris. Una commedia alla lucana, direi, perché di fatto Rocco Papaleo ormai ha inventato un genere che è tutto suo, nel vero senso della parola, perché forse lo può raccontare solo Rocco Papaleo. Sono favole che hanno una precisa collocazione geografica, sociale e sentimentale, che hanno una tenerezza, un'ingenuità, un candore che solo Papaleo può raccontare. E così anche le discontinuità di scrittura e visive e anche di regia, anche quelle imperfezioni in alcune delle recitazioni possono essere superate dal fatto che lui sa raccontarle, che lui sa abbracciarti con queste storie. Quello che chiediamo a Papaleo però è che nel terzo film riesca a arrivare dove non è arrivato fino adesso, diciamo più vicino alla perfezione. Allora andiamo a sentire Rocco Papaleo, che ha concesso un minuto uno al nostro Boris Sollazzo. Rocco, è una piccola grande impresa meridionale questa. Beh, grande lo dici tu, io sono molto soddisfatto perché ho fatto il film che volevo e il riscontro mi sembra molto gratificante. Non voglio svelare il finale perché è una delle cose più belle del film, però ci vuole un bel coraggio per far dire certe parole e far fare certe cose ai tuoi personaggi. Beh, coraggio, la poesia non ha paura. Hai creato un genere che è quello, insomma, di una commedia social regionale. Sbaglio oppure ti ci riconosci? Beh, no, io lascio a voi giornalisti, diciamo, le etichette, creare delle etichette. Io te ne propongo una. Se fossi giornalista chiamerei un film verosimilista. Il verosimilismo. E allora abbiamo anche varato una nuova corrente, il verosimilismo. Andiamo invece a parlare con Boris di Cose Nostre, Malavita, un cast con nomi altisonanti: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, un regista come Luc Besson, da un libro, qualcuno dice il miglior libro di Tonino Benacquista, anche se potremmo chiamarlo Tonino Benacquista, visto che comunque il passaporto batte bandiera francese. Sentiamo la clip. Un tempo io avevo tutto. La gente mi chiedeva, com'è essere intoccabile? Veramente avrebbe dovuto chiedermi, che succede quando finisce tutto? Boris, allora, quei bravi ragazzi o quei bravi ragazzi, potremmo dire? Beh, essendoci in produzione scorsese, francamente la citazione è doverosa e la fa lo stesso Besson nel film, con tanto di commozione, di Robert De Niro. Questo Malavita è un film secondo me gustosissimo, riporta il regista francese alle sue vette migliori e riporta anche Robert De Niro alle sue vette migliori. C'è una recitazione ironica, divertita, anche istrionica come negli ultimi anni, ma che non diventa gigionesca. Questo è un gangster pentito che diventa scrittore, la cosa più improbabile che potete immaginare, in una famiglia che la mafia ce l'ha dentro, se l'è portata fino in Francia, e quella mafia la mette nel suo vivere quotidiano, dal vendicarsi contro un supermercato a fare della scuola il proprio campo di battaglia. E forse la spiega meglio che tanti Padrini, parte seconde, terze, e proprio quei bravi ragazzi, proprio perché usa l'ironia. Veramente un film gradevole. E allora, io quando sullo schermo ci sono Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, il film lo devo andare a vedere, ditemi quello che volete, e l'ho fatto anche stavolta con Escape Plan, Fuga dall'inferno, arriva in tutto il mondo proprio in questi giorni, il film che riunisce, dopo l'esperienza di Expendables, i due maci per antonomasia del cinema muscolare anni 80, insieme a loro Jim Caviezel, 50 Cent e Sam Neill. Purtroppo il film è diretto da Mikael Hafström, che è proprio il punto debole di questa storia. Sentiamo la clip. Cosa facevi prima di arrivare qui? Mi pagano per evadere. Non sembravi così sveglio. Nemmeno tu. Ti ha pagato per farti finire qui. Vuole che ci resti per sempre. Ray è introvabile. Dov'è finito? Forse è finito in un buco nero. Nome in codice la tomba. Se è vivo è là dentro. Là dentro dove? Non lo so. Era una trappola. Qualcuno voleva seppellirmi qui. Devi scegliere. Puoi morire qui o puoi fuggire e vendicarti. Voglio scoprire chi è stato e voglio sapere perché. E li avete sentiti insieme Schwarzi e Sly, storia di un esperto di evasioni da carceri, pagato per farle, per dimostrare che le carceri sono insicure e quindi arricchire i portafogli di un'azienda che vende sicurezza, ma qualcuno vuol fargliela evidentemente pagare. Boris, un film molto divertente, però forse i due potevano prendersi ancora di più in giro. In certi momenti mi sembra che proprio manchi la mano della regia nel dirigere verso un divertissement che strizzi un pochino più l'occhio anche a quello che sono stati e a chi c'è di fronte allo schermo. Che devo dirti, Franco, un critico bravo dovrebbe mettere una stella. L'appassionato che c'è in me di questi Capitan Muscolo anni 80 gliene metterebbe 5. Io direi di mettergliene 3, perché come dici te giustamente è un film divertente ma non abbastanza, proprio perché ha un regista che quel senso dell'ironia non ce l'ha. Stallone e Schwarzenegger l'hanno dimostrato negli ultimi film in cui sono invecchiati più o meno bene, diciamo bene a livello recitativo, molto meno a livello estetico, hanno dimostrato che si devono dirigere da soli sostanzialmente, devono avere dei registi funzionali. Quando un regista prova a mettere la sua cifra sulla loro che è così particolare, o è il o sbagliano. Escape Plan trova proprio nella mano del cineasta che li conduce il suo punto debole. Però loro due insieme in questo Prison Break, al contrario, francamente sono irresistibili lo stesso. Per gli appassionati lo consiglio. Grazie Boris, allora appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Io sono Guy. Guy? E lui è Laccio. Cucina, parla, fa da navigatore. Tu chi sei? Oh, Ip. Lascia che ti spieghi, il mondo sta per finire. Cosa? Io la chiamo Fine. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo, il vostro indirizzo, provate a vincere il Blu-ray di questo film per i primi due ascoltatori che indovineranno in questa puntata. Fra 7 giorni vi diremo di quale film si trattava. E invece 7 giorni fa avevamo giocato così. Abbiamo parlato con Tracy oggi. Ha detto che hanno trovato un centro psicoterapeutico per Alan. Ma bellissimo, l'ho visto su internet. Ha un'ottima reputazione. Perché non risparmiano e lo mandano in un centro dimagrante? Sì. Si trattava di Notte da Leoni 3. Era questo il film in Blu-ray con cui abbiamo giocato la scorsa settimana. Lo hanno indovinato per primi, hanno vinto Potenza Sante o Sante Potenza, non lo so, di Fasano, provincia di Brindisi, e Stefano Garifo o Garifo di Castelvetrano, provincia di Trapani. Insomma, due nostri ascoltatori del sud per questo film che ci facciamo raccontare dagli amici di Film TV, che come sempre ci danno una mano a districarci fra le proposte di cinema da vedere in casa. Giulio San Giorgio è con noi, ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Allora, Notte da Leoni 3 è uscito in Blu-ray per Warner, film dove il branco di amici ritorna sul luogo del primo delitto, ovvero Las Vegas. Il franchise diventa una commedia d'azione con Zach Galifianakis, mattatore principale. È proprio a lui che sono dedicati i migliori extra di questo Blu-ray, che ha un'alta resa nelle immagini e nei suoni, almeno nell'originale, con un'intervista all'attore e provini segretissimi per sostituirlo, gag fuori scena e alcuni retroscena di sequenze con animali e bambini, molto divertenti. E allora, questo era il nostro game della scorsa settimana, Notte da Leoni 3, invece una segnalazione dai palinsesti cinematografici delle televisioni in chiaro, del digitale terrestre. Quando Giulio mi ha proposto Americani, il mio cuore si è illuminato. Sono passati, ahimè, 21 anni da quando il film arrivò in sala. Il suo titolo originale era Glenn Gary, Glenn Ross. C'erano nel cast 6 nomi strepitosi, 7 forse. Allora vi faccio la formazione: Jack Lemmon, Al Pacino, Kevin Spacey, Ed Harris, Alan Arkin, Alec Baldwin e Jonathan Pryce. Beh, insomma, Giulio, tanta roba, eh? Tantissima roba. Americani, venerdì alle 22.50 su Rai Movie. Un'agenzia immobiliare stabilisce una soglia di produttività sotto la quale c'è il licenziamento e gli impiegati diventano ovviamente degli squali. È una tragedia classica dei nostri tempi, un saggio sul darwinismo capitalista scritto da quel genio drammaturgico che è David Mamet e recitato, come dicevi, da una schiera di mostri sacri. E allora, questo era Americani, venerdì alle 22.50 su Rai Movie. Assolutamente segnatevelo e piazzate visione o registrazione, perché ne vale davvero la pena. Grazie a Giulio San Giorgio, agli amici di Film TV, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E le note della nostra sigla ci dicono che siamo arrivati in fondo alla nostra Rosa Purpurea di questa settimana. Io vi voglio ricordare la nostra pagina Facebook, la Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace, unitevi a noi, diteci la vostra durante la settimana sui film che vedete, chiedeteci quello che volete, sosteneteci in tutti i modi. Però voglio anche ricordarvi che solo il 22 e il 23 ottobre, questo è un appuntamento da segnare col circolino rosso per tutti gli amici che amano il fumetto e quelli come me che si sentono zagoriani dentro, c'è un film che arriva solo il 22 e il 23 ottobre in 200 sale italiane, quindi una bella distribuzione, che si intitola Noi Zagor e fa un po' il punto sulla passione, sulle caratteristiche, sul successo di un personaggio, quello creato da Sergio Bonelli, appunto Zagor, con tante interviste ad appassionati, ai creatori, dicevo, un personaggio che è assolutamente scolpito dentro l'anima di chi lo ama, che forse non è il più famoso di tutti in casa Bonelli, Dylan Dog e Tex forse hanno fatto di più in termini di popolarità, ma che è davvero un must per tutti quelli che lo hanno incontrato. Io ho la fortuna di averlo incontrato quando ero ragazzino, i primi 140-150 numeri ce li ho ancora tutti lì, che mi guardano, che io guardo e leggo periodicamente. Noi Zagor al cinema, un bel documentario, il 22 e il 23 ottobre, solo quei due giorni in 200 sale italiane. È davvero tutto, grazie e appuntamento al cinema a tutti voi, un saluto da Franco D'Assisti. Thank you.